The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize of 2012 is to be awarded to the European Union. Oggi a Oslo verrà consegnato il Nobel per la pace all'Unione Europea. Non ci sarà il primo ministro inglese Cameron e per molti leader europei sarà un momento d'incontro extra agenda. Ma per Elena Nicoletta Garbugio sarà invece un giorno indimenticabile. Ha 16 anni ed è la vincitrice di un concorso europeo per aver scritto il miglior tweet sulla pace. Pace, ponte, avente, comuni estremità. Ha scritto Elena e ha vinto. È partita ieri da Milano, la città in cui vive, per Oslo e oggi parteciperà alla premiazione. La vedremo tra i leader europei a rappresentare Elena 27 milioni di adolescenti europei tra i 13 e i 17 anni. Un'età faticosa, fatta di conflitti ed emozioni fortissime, di slanci e ingenuità. Buona fortuna allora a Elena e a tutta quella generazione che scrive in 140 caratteri, che ha ancora il sogno di una cosa e che crede davvero nell'idea di un'Europa unita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.